there, listen to Rock FM. Rock FM. Chitarre degli storici Allman Brothers con la loro Ramblin' Man. Intervengo e parlo. Allora, siete su Rock FM, vi ricordo ancora edo@rockfamily.it, piuttosto che appunto il sito www.rockfamily.it. Cosa vedono i miei occhi? I Clash. Ci andiamo a riascoltare la mitica Guns of Brixton. We'll be right back. Storici Clash, questo era il periodo di London Calling, Guns of Brixton era la traccia scritta dal bassista Paul Simon, neanche cantata da Paul Simon di quel disco, il mitico London Calling, tra l'altro anche dal vivo, Paul Simon guadagnava il fronte del palco, prendeva la chitarra perché il giro di basso, che era un pelino più complicato, lo suonava il grande Joe Strummer. Proseguiamo, sta per partire un altro Tris Dass, in sottofondo le chitarracce dei Georgia Satellites. She said, don't give me no lines and keep your hands to yourself. And keep your hands to yourself. lines and keep your hands to yourself. Let me take you far away. You'd like a holiday. Let me take you far away. You'd like a holiday. Exchange the cold days for the sun. A good time. Ragazzi, che musica, come direbbe il collega Max De Rio. Abbiamo sentito i Georgia Satellite con Keep Your Hands to Yourself, Get It While You Can per Janis Joplin e gli Scorpions con Holiday. Questa, nel caso non l'aveste capito, è Rock FM. Tra poco alle 21 saliremo sul palco di Milano, di Piazzetta Liberty, con la Rock FM All Stars Band, quindi cominciate a caricarvi con questa canzone già in sottofondo. Forza, vogliamo festeggiare. Nel caso non possiate venire, festeggiamo da qui. Questa è Blitzkrieg Bob, questi sono i Ramones e questa è Rock FM. Blitzkrieg Bob, questi erano i Ramones, riascoltati qua da Rock FM. Vi ricordo di tenere d'occhio rockfamily.it anche per rimanere aggiornati di quelle che saranno tutte le iniziative che ci vedranno protagonisti nell'ultima settimana di messa in onda di Rock FM, quella che terminerà il 30 di maggio a partire dalle 18, dove invece comincerà la ultima 24 ore di diretta della nostra storica emittente Rock FM. Blue sky.